scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Tornano quest'estate gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura. Gli incontri di Voci in Scena. Nasce nel 1985 a Cuba da genitori diplomatici di origine capoverdiana. Per tutta la sua vita viaggia con la sua famiglia fino a stabilirsi a Parigi all'età di 17 anni. Fin da ragazza studia canto e comincia a esibirsi molto giovane. A 21 anni, nel 2006, il primo album Navega. Nel 2009 Storia Storia, nel 2010 Studio 105. Lovely Difficult è il quarto album, uscito nel novembre 2013. Ha ricevuto una nomination agli Oscar francesi della musica, Les Victoires de la Musique. In luglio è arrivata in Italia, dove vuole far conoscere la sua musica. Lei è Mayra Andrade. Io nasci in Cuba, fui per Cabo Verde, molto... Sono nata a Cuba, ma sono andata a Capo Verde quando avevo meno di un mese. Sono stata a Capo Verde fino all'età dei 6 anni. Poi ho cominciato a viaggiare con la mia famiglia. Ho vissuto in Senegal, Angola, Germania e ogni tanto tornavo a vivere a Capo Verde. E tutto ha soprattutto influenzato la mia maniera di vedere il mondo. Tutto questo ha sicuramente influenzato il mio modo di vedere il mondo, ancora prima di influenzare il mio modo di fare musica. La mia musica è uno specchio piuttosto fedele del mio modo di vivere la vita. Non farei certo la stessa musica se non avessi fatto tutti questi viaggi. Effettivamente, non farei pas du tout la même musique si je n'avais pas fait tous ces voyages. Quando parliamo di Capo Verde in particolare, perché da lì vengono le tue origini, Capo Verde è sinonimo di musica, è sinonimo anche di musica al femminile. C'est vrai, on se demande pourquoi il y a autant de... È vero, tutti si chiedono come mai ci sono tante donne cantanti a Capo Verde e così pochi uomini, o almeno così pochi uomini che arrivano al successo internazionale. In realtà, fortunatamente, abbiamo anche ottimi musicisti e compositori maschi. Ma certo, sì, la voce della donna è essenziale a Capo Verde. La femme è essenziale a Capo Verde. C'est peut-être le rôle des femmes en Afrique aussi, il ruolo delle donne in Africa è particolarmente importante. E quando si parla di Capo Verde si parla sempre di Cesaria Evora. Che cosa pensi ogni volta che si legge che tu sei l'erede? C'est une responsabilité vis-à-vis du Cap Vert. E bien sûr vis-à-vis du fait que Cesaria è una responsabilità nei confronti di Capo Verde e nei confronti del fatto che Cesaria ha fatto qualcosa di enorme per il nostro paese. Ha acceso un riflettore sulle nostre isole che praticamente non esistevano agli occhi del mondo. Par rapport à cet héritage, Cesaria ha fait partie della bande originale de ma vie. Rispetto a questa eredità, Cesaria ha fatto parte della colonna sonora della mia formazione, ma anche altri artisti di Capo Verde che sono stati importantissimi per me. Certo, sono cresciuta ascoltando la sua voce. In comune abbiamo il fatto di essere due donne capoverdiane innamorate del loro paese e che attraverso la nostra voce cerchiamo di farlo conoscere agli occhi del mondo. E che attraverso la nostra voce essayons de le faire connaître aux yeux du monde, mais moi je pense je le fais d'une manière un peu différente parce que la mia musica è molto diversa da quella che faceva Cesaria, ed è normale, perché appartengo a una generazione diversa con un percorso molto diverso. Un parcours très différent. I ritmi da cui attinge la tua musica, Morna, Colaidere, Funana, sicuramente li pronuncio male, ci insegni molto di questi ritmi, di queste musiche. En fait, la Morna, Colaidere sono dei ritmi comuni a tutte le isole. La Morna, la Colaidere, Sono ritmi comuni a tutte le isole di Capo Verde. Io vengo dall'isola di Santiago, la più africana del paese, la prima ad essere stata popolata. Ci sono dei ritmi che mi fanno vibrare diversamente, in particolare il batuk e il funanà, che sono tipici dell'isola di Santiago e che non si suonano in altre isole. Sono ritmi più africani che io cerco di far conoscere perché Capo Verde è un paese molto meticcio. Le Cap Vert étant un pays très métis, on nous associe beaucoup au Brésil et on oublie souvent que avant tout nous sommes un peuple africain. Ci associano molto al Brasile, ma ci si dimentica che innanzitutto siamo un popolo africano e penso che sia una forza per noi. Sono cresciuta ascoltando questi ritmi, ascoltando le donne suonare il batuk. Voglio far uscire questi stili da un ambiente rurale per portarli in città e poi in tutto il mondo, modernizzarli un po'. En ville, mais aussi dans le monde entier, en le modernisant un peu. Giovanissima, già 4 album, il primo nel 2006, l'ultimo Lovely Difficult, anche una nomination agli Oscar francesi della musica, alle Victoires de la Musique. C'est vrai. Je pense que c'est le prix le plus important. Penso che sia il premio più importante in Francia. È buffo, perché per una volta che ho fatto un album più pop, mi candidano nella categoria World Music. Interessante, no? Prima facevo cose più tradizionali e più world e non le avevano nominate. Penso che questo album sia un riflesso preciso di questi ultimi 12 anni che ho passato a Parigi. Sarebbe strano non sentire nella mia musica questo vissuto europeo. Sarebbe stato très étrange de ne pas l'entendre dans ma musique, ce vécu européen. Et c'est un album où j'ai voulu laisser une place à ces rencontres. È un album in cui ho voluto lasciare un posto a questi incontri che ho avuto in Francia. Negli album precedenti andavo a cercare i brani a Capo Verde o li scrivevo da sola. In questo album ho voluto adottare un linguaggio più moderno e ho chiesto brani a compositori come Benjamin Biolay, Yael Naïm, Crystal Warren, Hugh Goldman, Pierce Faccini, Pascal Danet. Sono felice perché ho l'impressione di aver chiuso un cerchio e di averne aperto un altro con la mia musica, con questo disco. J'ai l'impression d'avoir fermé une boucle e ouvert une nouvelle boucle dans ma musique avec ce disque. Hai collaborato con molti artisti e hai cantato in molte lingue. Mm-hmm. C'est dangereux. C'est dangereux? Oui, c'est dangereux. C'est dangereux parce que il y a énormément d'albums multilingues. Che je n'aime pas. Sì, è pericoloso. È pericoloso perché ci sono molti album multilingue che non mi piacciono, perché mi suonano come delle specie di patchwork con un problema di identità. E di questo avevo molta paura. Allo stesso tempo, però, ho voluto farlo perché riflette realmente la mia vita. Non canto in molte lingue per fare la poliglotta. Canto in molte lingue perché vivo in molte lingue, respiro in molte lingue. Perché je vis dans plusieurs langues. Je respire dans plusieurs langues. E queste lingue sono il portoghese e il creolo, che sono le mie lingue madri. Il francese, che è la lingua che ho parlato quotidianamente da quando avevo 6 anni, e poi l'inglese, che è arrivato più tardi, ma nel quale si fanno talmente tante belle canzoni che non ho voluto privarmene. Quindi la sfida è stata di preservare l'essenza di queste lingue attraverso le canzoni. Le défi était de préserver cette essence à travers les chansons. Song. I titoli spesso sono una carta d'identità. Hai scelto Lovely Difficult per l'ultimo album. Simon, en fait, le nom de cet album, c'est un surnom, un nickname que mon ex-compagnon me donnait. Il disait que j'étais Lovely Difficult. Parfois, je me réveillais de mauvais poils, de mauvaise humeur. Il me regardait et il me disait « Aujourd'hui, tu es Lovely Difficult ». Il titolo di questo album in realtà è il soprannome che mi dava il mio ex compagno, Lovely Difficult, come dice una canzone italiana, dolcemente complicata. A volte mi svegliavo di cattivo umore, lui mi guardava e diceva: ah, oggi sei Lovely Difficult. Diceva che mi amava enormemente, ma che a volte aveva voglia di buttarmi dalla finestra. E che parfois il avait envie de me jeter par la fenêtre. E donc voilà, cet album étant assez personnel, j'ai voulu... Questo album è molto personale e ho voluto intitolarlo così. Anzi, è stato proprio lui a volerlo chiamare in questo modo. E poi il disco è stato registrato in Inghilterra, a Brighton, e gli inglesi dicono sempre lovely a qualsiasi cosa. N'importe quoi, ils disent oh lovely, lovely. Io li prendevo in giro e lo ripetevo anch'io. Un giorno il mio ex fidanzato è venuto in studio e ha commentato lovely come te, lovely difficult, ed è restato come nome dell'album. C'est resté comme le nom de l'album. Cosa speri ora? Quali sono i tuoi progetti? Pour l'instant, j'ai un grand projet en Italie. Qui è di far conoscere ma musica. Per il momento ho un grande progetto in Italia, che è quello di far conoscere la mia musica, venendo il più possibile a suonare live, perché penso che il live sia il miglior modo di farmi conoscere dalla gente. Ho fatto 6 anni di concerti prima di registrare un album. Sono davvero un artista live. J'espère que le public italien embrassera cette musique. Spero che il pubblico italiano possa accogliere la mia musica. Non ho altro desiderio di continuare a essere libera in quello che faccio e ogni giorno un po' più felice. E chaque jour un peu plus heureuse. Voilà. Très jeune mais très très sage. Giovane ma molto saggia. Cerco di esserlo molto meno. Ed è tutto per questo Voci in Scena oggi con Mayra Andrade. L'appuntamento è per lunedì alla stessa ora. We'll be right back.